tutti hanno capito che la scusa, il pretesto del secondo emendamento che garantirebbe il diritto alle armi, che poi di fatto non è così, ma garantirebbe al massimo il diritto ad avere delle milizie ben ordinate per la difesa della nazione, non c'entra niente col diritto dei civili alle armi, di fatto poi vi porta a queste stragi. E teniamo conto che questa è la seconda strage in una settimana, perché settimana scorsa c'è stata un'altra strage a Buffalo, dove un suprematista bianco ha ucciso diverse persone sparando appunto alla popolazione di colore. Siamo sempre lì purtroppo, e purtroppo questa questione riguarda anche l'Italia, perché anche in Italia è molto facile ottenere una licenza per armi, anche per un giovane, anche per un diciottenne. Tutto si basa su una autocertificazione controfirmata dal medico curante, che attesta che una persona non è un tossicodipendente, non fa uso di droghe, non è un alcolista cronico e non ha particolari turbe mentali. Poi c'è una visita all'ASL, tipo quella che si fa per la patente di guida, e occorre un breve corso di mezza giornata presso il tiro a segno nazionale per imparare il maneggio delle armi. Quindi praticamente è semplicissimo ottenere anche in Italia, purtroppo, e anche per un giovane, una licenza, perché non sono richiesti né test attitudinali né un esame psicologico o psichiatrico, men che meno è richiesto un esame di tipo appunto tossicologico se una persona fa uso di droghe, è un'autocertificazione, dicevo. E dall'altra parte un giovane in Italia di 18 anni può detenere 3 pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, di più di quelli che ha la polizia ha caricatori fino a 15 colpi, può detenere 12 fucili semiautomatici, che sono quelli più usati, tipo gli AR-15 o proprio nelle stragi in America, con caricatori fino a 10 colpi in numero illimitato, questi caricatori, senza doverli denunciare, e numero illimitato di fucili da caccia, oltre a 200 munizioni per appunto armi sportive o per pistole e 1500 cartucce per fucili da caccia, un arsenale. Faccio un passo ancora indietro sugli Stati Uniti, perché durante la presidenza di Obama il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato un giro di vite delle restrizioni. Oggi Biden dice lo stesso, ma sono state solo parole? Purtroppo sì, anche perché molto dipende più che dalla nazione, cioè dal governo nazionale, dipende dai vari governi dei vari stati, ed è questo il problema centrale. E cioè occorrerebbe invece una norma nazionale che dia delle direttive, delle restrizioni anche a tutte le norme che vengono applicate e vengono fatte negli stati. Per esempio, anni fa fu fatta appunto una norma per mettere al bando per diversi anni appunto i fucili semiautomatici, quelli che dicevo vengono più utilizzati nelle stragi. Questo si potrebbe fare subito, così come altre norme che richiedono per esempio dei controlli non soltanto sulla fedina penale, ma anche proprio di tipo psichiatrico, psicologico sulle persone. Su questo ovviamente in America pesa moltissimo la lobby delle armi, che controlla di fatto gran parte del Parlamento, soprattutto della parte repubblicana del Parlamento, e questa è la grossa questione che o viene affrontata seriamente oppure non se ne esce. Detto in una parola, gli Stati Uniti sono un paese in guerra interna, in permanente guerra interna da decenni, oltre che in guerra esterna per altre questioni che ben sappiamo, ma questo è un dato di fatto ormai, perché è il paese nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, dove appunto avvengono il maggior numero di queste stragi. Quindi è un problema comunque anche internazionale. Tu prima dicevi la facilità con cui anche in Italia si può avere accesso alle armi, e le armi sono spesso ciò che provoca stragi familiari o anche femminicidi nel nostro paese. Esattamente, proprio qui il problema centrale. Da noi fortunatamente queste stragi non ci sono state, c'è stato appunto quel tentativo di strage di Luca Traini di qualche anno fa, che sparò appunto agli immigrati di colore, ma una buona parte degli omicidi e femminicidi che vengono compiuti appunto con armi legali, proprio perché è troppo facile, è troppo semplice detenere delle armi. C'è anche poi un'altra questione, una deriva che va evidentemente segnalata, perché nel 2018 Salvini, andando alla fiera delle armi di Vicenza, Hit Show, si impegnò, firmò anzi un patto d'onore con una di questi gruppi Unarmi, che è un gruppo piccolissimo, diciamo così, ma di fatto molto importante dal punto di vista dell'ideologia che diffonde, che è un gruppo che ha come proprio scopo principale quello quello da una parte di propagandare il diritto alle armi e dall'altra parte di costituire in Italia una lobby tipo la NRA che c'è in America. Questi fatti sono troppo poco evidenziati e stanno continuamente agendo. Non è una questione di poco conto che proprio 2 settimane fa si è tenuta a Verona, questa volta, un'altra fiera delle armi, EOS, e a cui era permesso l'accesso a tutti, anche i minorenni, purché accompagnati dai genitori, e c'erano tutte le armi, tutti i tipi di armi, tranne ovviamente le armi da guerra, le armi automatiche, ma c'erano le armi per le pulizie, c'erano i fucili semiautomatici, per i corpi appunto speciali, tutto questo tipo di armi. È un'ideologia che si va diffondendo, e questo è il grosso problema che andrebbe affrontato anche in Italia, introducendo delle norme, e ci sono attualmente in Parlamento alcuni disegni di legge, uno è proposto dal PD e un altro è proposto dall'onorevole Maggi di Più Europa, che chiedono perlomeno di introdurre dei controlli psicologici, psichiatrici e quindi degli esami approfonditi prima di rilasciare una licenza per armi. Sarebbe già questo una norma importantissima.